Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, un saluto, un buongiorno, bentornati all'appuntamento con Europa, Europa. Partiamo da un fatto di cronaca drammatico che coinvolge anche, naturalmente, ma non solo l'Unione Europea. Unione Europea che si dice sconvolta dall'uccisione lunedì scorso di Daphne Caruana Galizia, giornalista anticorruzione, morta appunto lunedì a Malta nell'esplosione della sua automobile. Lui ha chiesto che sia fatta giustizia. Ha chiesto che la giornalista maltese, molto nota e rispettata, fosse rispettata anche nel modo in cui si lavorerà per fare luce sulla sua morte. Un caso che va ben oltre il tema ristretto della cronaca nera. Allora sentiamo su questo Raffaella Calandra. Mafioso. La pronuncia in italiano, Xavier Balzan, quella che secondo lui è la matrice dell'attentato alla collega Daphne Caruana Galizia, riconosce uno stile mafioso, il giornalista ed editore maltese, dietro l'autobomba che ha fatto saltare in aria la blogger che svelava i misfatti di corrotti e potenti nell'isola Ponte dell'Europa. L'auto noleggiata, l'ordigno attivato con un telefono, il pulsante premuto dalle colline intorno. Sull'isola sono già 7 le autobombe esplose in poco più di un anno, nel silenzio dell'Europa, ma stavolta questo attentato è come una sveglia collettiva, commenta Balzan, che accende le luci sull'isola, che da una parte respinge le navi dei migranti, dall'altra accetta e volentieri soldi di ogni provenienza. Abbiamo visto degli incidenti con queste bombe in vetture, questi sono delle sistemi sofisticate. Per il momento tutti questi incidenti, 6 o 7, la polizia maltese non ha trovato i colpevoli. Questo incidente è un gran shock, penso che è stato un wake up call sulla situazione locale. Non a caso tanto l'FBI quanto Scotland Yard e le polizie di mezza Europa stanno dando una mano in questa indagine che, seguendo le tracce delle inchieste di Daphne, finisce per incrociare gran parte degli affari sporchi di Malta. Qui negli anni sono approdate, richiamate da fiscalità privilegiata e garanzia di sicurezza, molte società fittizie, schermo per evasioni fiscali, frodi internazionali e riciclaggio, ora su aziende di call center, ora per i colossi del gioco online, ora in indagini sul petrolio, come hanno svelato diverse inchieste italiane, come quella catanese che ha ricostruito una triangolazione con Libia e Italia. Lontano dalle polizie dell'Europa continentale, qui non di rado sono sbarcati dranghettisti e mafiosi, qui conducono anche i soldi di chi lucra sul traffico di esseri umani e qui sull'isola ora si aspettano l'apertura di molte società che potrebbero lasciare Londra dopo la Brexit. A Bruxelles intanto giorni di Consiglio europeo. Il tema avrebbe dovuto essere l'avanzamento dei lavori della Brexit. Ormai sono diversi mesi che ne parliamo. Il tema in realtà è rimasto, anche se addirittura marginalizzato. Il fatto è che i risultati stanno letteralmente a zero. Allora sentiamo da Londra Leonardo Maisano. Theresa May ha lasciato Bruxelles sull'onda di un fallimento che promette di spianare la strada a un possibile compromesso in dicembre. Era scontato che i partner non avrebbero dato il via libera a negoziati sulle future relazioni economico-commerciali fra Londra e l'Unione. Prima, è il mantra che si leva dal continente unito, vanno regolate le questioni relative alla condizione dei cittadini europei residenti nel Regno. Va definito il confine anglo-irlandese, l'unico di terra fra Gran Bretagna e Unione. Va calcolato l'assegno che gli inglesi dovranno staccare. Quest'ultima resta la questione più spigolosa. Sui cittadini UE le parti hanno fatto passi avanti davvero significativi. L'assetto futuro anglo-irlandese troverà maggiore compimento, crediamo, come Londra stessa suggerisce, quando saranno chiari i rapporti futuri fra i divorziandi. Sui quattrini no, l'intesa manca. Se Theresa May vuole davvero passare alla fase 2 entro dicembre, deve alzare la posta ben oltre i 20 miliardi che ha proposto. L'impasse è questo e lo scontro più duro Theresa May lo avrà in casa con il fronte euroscettico che si dice pronto a far saltare il tavolo se Bruxelles pretenderà quanto essi ritengono essere eccessivo. Deve essere chiaro che la Catalogna non è uno Stato, ma una regione autonoma che fa parte dello Stato spagnolo. Così il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani a chi gli chiedeva perché non avesse invitato il presidente catalano Puigdemont nell'aula. Io sono per il dialogo, ha detto, ma non intendo fare nessuna mediazione perché non è competenza del Parlamento europeo a farlo e non intendiamo, ha aggiunto, riconoscere la Catalogna come un interlocutore allo stesso livello del governo spagnolo. Questo dunque Tajani, che a dire il vero torna per l'ennesima volta sulla questione. Eppure, l'avrete notato, in questa vicenda c'è un aspetto almeno curioso, un mantra quasi. Il mantra è: ma perché l'Europa tace? Prosegue l'escalation di tensione tra Spagna e Catalogna. Ma la domanda che molti si pongono è: perché l'Unione Europea tace? Perché non dice nulla? Perché non prende posizione? Non è pigrizia o malafede. La risposta è nei trattati istitutivi dell'Unione Europea. Perché l'articolo 4 del trattato sull'Unione Europea stabilisce che la UE rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Non solo, l'Unione rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare quelle di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In altre parole, gli affari interni ai singoli Stati membri sono appunto interni e Bruxelles si mantiene neutrale. Ma se la Catalogna diventasse davvero uno Stato indipendente, potrebbe entrare in tempi brevi nell'Unione Europea? Avrebbe una corsia preferenziale? I passaggi per diventare Stato membro sono nero su bianco all'articolo 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea. Lo Stato che chiede di diventare membro deve rispettare e promuovere, innanzitutto, i valori fondanti dell'integrazione europea, libertà, eguaglianza e Stato di diritto. Ed è qui dove si è arenato il negoziato, ad esempio, con la Turchia di Erdogan. Ma a decidere, dopo aver consultato la Commissione e dopo il voto a maggioranza del Parlamento europeo, è il Consiglio, cioè l'organo che rappresenta tutti gli Stati membri, e il sì deve essere dato all'unanimità, compreso quello di Madrid, capitale dello Stato membro Spagna. Uno scenario al momento inverosimile. Per questo la propaganda politica catalana, che da sempre parla di un'autonomia della Spagna e di un rapido riconoscimento della regione nel club di Bruxelles, rischia invece di portare Barcellona verso un drammatico isolamento. Laura Cavestri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fino a quando non costruiremo gli Stati Uniti d'Europa ci saranno questi movimenti autonomisti, proprio come quello in Catalogna. Così Massimo Cacciari, che si dice convinto che la chiave per contrastare le spinte centrifughe sia una sola. Sentiamo quale al microfono di Valentino Furlanetto. Soltanto all'interno di un'organizzazione federale europea questi movimenti cesserebbero di avere senso, cesserebbero di avere significato. Fin dato che l'Europa è a pezzi come adesso, è evidente che si moltiplicheranno le spinte nazionalistiche, sovraniste, autonomistiche di questo genere, per forza. Gli stati centrali sono in crisi, sono delle macchine burocratiche centralistiche che non reggono più. L'Europa non riesce a costruirsi come Stati Uniti e quindi sarà inevitabile che movimenti come quello catalani si producano e si riproducano. Non c'è niente da fare. È stata un'impotenza l'Europa che è rimasta così a guardare. Scherziamo. Le forze centrifughe in azione anche a est dove in questa settimana si è discusso molto per la nuova legge della scuola, l'organizzazione scolastica ucraina. Perché ci interessa? Perché, come è ovvio immaginabile, in Ucraina si parla l'ucraino, ma come in tantissimi paesi europei ai suoi confini si parlano altre lingue, in particolare in Ucraina si parla anche il russo in una grande parte dell'est e del sud, ma si parla anche l'ungherese. Bene, proprio intorno a questa vicenda la preoccupazione è stata sollevata da Mosca, ma in maniera particolarmente ferma anche da Budapest, che dice, e lo fa rivolgendosi all'Unione Europea: intervenite per impedire che la nuova legge sulla scuola crei una volontà di un'ulteriore spaccatura sul modello catalano per le regioni di lingua ungherese, appunto, ai confini dell'Ucraina. Restiamo a est, dividere l'Europa dalla Russia e da parte degli Stati Uniti un errore storicamente incomprensibile. Oggi ci troviamo schiacciati da una politica che non abbiamo deciso noi. Così il presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, Romano Prodi, al Forum economico eurasiatico di Verona. Lo sentiamo in un breve passaggio al microfono di Laura Bettini. Abbiamo visto com'è calata la quota di mercato delle nostre esportazioni in Russia. Nel primo semestre di quest'anno le cose sono andate un po' meglio, ma siamo infinitamente al di sotto rispetto a prima. Gli americani non sono stati sostanzialmente danneggiati. Non vedo proprio come l'Europa possa supinamente accettare queste sanzioni. Viene semplicemente subito una politica che non giova, secondo me, certamente a noi né nel breve né nel lungo periodo. Non gioca nemmeno nel lungo periodo a favore degli Stati Uniti, perché avrebbero tutto l'interesse a avere un rapporto buono con l'Europa e la Russia, se non altro per i problemi del Medio Oriente. Molte dunque le notizie dall'Europa orientale, che naturalmente lo ricordiamo, l'Ucraina stessa, insomma una vicenda di crisi che va avanti ormai da 4 anni, una vicenda che nasce intorno al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, insomma una vicenda ancora ben lontana dal chiarirsi. È tutto per questa prima parte, adesso sentiamo insieme le informazioni per chi è in viaggio e poi torniamo per la seconda parte di Europa Europa. Europa Europa. Di nuovo buongiorno da Gigi Donnelli al microfono, da Paolo Corleoni in regia. La scorsa settimana abbiamo parlato a lungo di Copernicus, di satelliti e di come appunto l'Unione Europea abbia davvero un ruolo di leadership in questo ambiente. Copernicus, dunque controllore, sentinella del clima. Oggi abbiamo sentito e voluto dar voce a quello che è il passo successivo, un grande sistema e poi le applicazioni. Allora, sbarca in Italia Copernicus C3, il programma appunto di osservazione dell'Unione Europea, e lo fa andando a occuparsi in maniera specifica, essere utilizzata da chi deve occuparsi della quantità e della qualità dell'acqua in una nostra regione particolarmente importante. Andiamo dunque in Romagna, sentiamo Daniele Domenichini, che è il responsabile appunto di Bonifica Romagna e che ci racconta come può essere utilizzato e viene utilizzato il sistema satellitare per la gestione di questa preziosa risorsa. Il satellitare per noi è stata una grande opportunità, perché riesce a fornire dei dati e delle informazioni che sono indispensabili nella nostra attività, soprattutto di programmazione. Per esempio quali? L'informazione base, ad esempio, è quella di poter riconoscere anche a posteriori, dopo che sono già avvenuti gli eventi, se il terreno ha avuto una giusta quantità di acqua e se in effetti non è piovuto, se il terreno è stato irrigato. Quindi dà la possibilità di riconoscere effettivamente quelle che sono le condizioni del terreno anche non andando sul posto. I metodi irrigui che noi abbiamo sono metodi molto sofisticati, con la necessità di non sprecare acqua, perché questo è uno dei punti fondamentali da tenere in considerazione. L'acqua non è un bene illimitato, è un bene molto prezioso, ma va gestito in modo accurato, e quindi anche gli stessi agricoltori sono molto attenti e parsimoniosi nell'utilizzare l'acqua. È chiaro però che le condizioni climatiche sono talmente cambiate ultimamente e l'aiuto del satellitare praticamente è proprio quello di riuscire a darci delle segnalazioni, praticamente a darci dei dati che ci consentono di poter programmare meglio tutta la nostra irrigazione, o comunque quella che viene fatta fare agli agricoltori. Ecco, quanto spesso attingete a queste informazioni? Allora, il sistema Copernicus per noi diciamo che non serve ogni giorno, ci serve più che altro per programmare le nostre attività anche a distanza, cioè per programmare per il futuro, per pianificarle proprio ovviamente, noi del consorzio di bonifica, però ci sono altre strutture come il consorzio di bonifica per il canale Emiliano Romagnolo, il CER, che lo utilizza quasi quotidianamente, perché le vere istruzioni per gli agricoltori vengono date dal CER con il sistema IRINET, dove effettivamente si dice agli agricoltori, in funzione di quello che sono le condizioni climatiche, le condizioni del terreno, si dice quanta acqua devono dare per ogni singola coltura. Gli studenti, i nostri figli, i nipoti, si muovono sempre di più all'interno dell'Europa, ma non solo, grazie al progetto europeo Erasmus Plus, infatti si muovono anche oltre i confini dell'Europa. Se ne è parlato in una o due giorni alla Sapienza di Roma, si sono incontrati molte università europee, quelle dell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, quindi Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, ma anche Marocco, Palestina, Siria, Tunisia. Maria Piera Ceci ne ha parlato con Sara Pagliai, che è coordinatrice dell'agenzia Erasmus Plus. Erasmus dal 2015 permette anche questo, la mobilità non solo per studiare dentro l'Europa, ma anche mobilità fuori Europa. Quindi scopo di questo seminario è accrescere la cooperazione e la mobilità degli studenti. Per il 2017-2018 sono stati finanziati 49 istituti di istruzione superiore italiani con un budget di quasi 14 milioni assegnati all'Italia dalla Commissione europea. Questi fondi a cosa vengono finalizzati? I fondi sono stati finalizzati alla mobilità per studio degli studenti e alla mobilità per formazione dei docenti, sia per gli studenti italiani che vanno fuori Europa, sia per accogliere studenti non cittadini dell'Unione dentro le università italiane e in generale le università europee. Per l'Italia i numeri che lei ha citato, quindi 14 milioni è stato il budget 2017, hanno permesso un totale di una mobilità di oltre 3.000 persone fuori dall'Europa, quindi 2.000 circa in entrata e 1.500 in uscita. Come sono messe le nostre università da questo punto di vista della mobilità attraverso i piani Erasmus? Le nostre università sono molto attive, questo sia per quanto riguarda la mobilità tradizionale, diciamo quella più conosciuta del settore Erasmus, quindi la mobilità per studio o per formazione nei paesi dell'Unione Europea, ma sono anche le nostre università molto aperte verso la mobilità extra UE, in particolare con i paesi vicini, i paesi limitrofi, e quindi questo seminario si tiene a Roma proprio perché l'Italia è sempre stato un paese ponte verso la riva sud, la sponda sud del Mediterraneo, con cui appunto tante delle nostre università hanno progetti e programmi insieme. Continuiamo a occuparci di giovani e torniamo a parlare di quello che per un certo periodo è stato davvero ricorrente nelle nostre notizie. Mi riferisco a Garanzia Giovane, un programma europeo che ha lo scopo in sostanza di migliorare l'occupazione o l'impiego dei giovani in età compresa tra i 18 e i 25 anni. Questo appunto è il programma lanciato in una prima fase nel 2014, programma che adesso ha dei problemi, non riesce più ad attirare come una volta appunto i giovani, gli interessati. Allora, l'europarlamentare Brando Benifei, che si occupa appunto di questi temi, ci racconta ai microfoni di Radio 24 in che modo intende, lui che segue la vicenda da parecchio tempo, rilanciare questa possibilità per gli studenti. Da una parte, proprio sul dato, mi sentirei di dire questo: il momento in cui c'è stato il picco di adesioni è stato anche il momento in cui ancora la crisi era più pesante rispetto alla situazione lavorativa dei giovani, e c'erano anche tutto sommato meno strumenti rispetto agli incentivi che poi sono stati messi in campo anche in Italia per l'assunzione di giovani. Il problema che rimane, che c'era dall'inizio a mio parere, è la scarsa capacità del programma, purtroppo, e questo è davvero il punto su cui dobbiamo lavorare per migliorarlo. Io sono relatore del rapporto di implementazione al Parlamento europeo e quindi sto lavorando su questo. è la capacità di raggiungere i cosiddetti inattivi, i NETS. Su questo l'Italia non ha saputo fare il miglior risultato possibile, anche rispetto ad altri paesi. Dobbiamo migliorare, e questo può essere fatto solo, secondo me, andando avanti sulla seconda questione, la secondo aspetto che vorrei sottolineare, e cioè l'effetto che poi mi porta a dire che questo programma deve continuare. Noi lo stiamo sostenendo anche per un rifinanziamento nel nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, è l'effetto positivo che ha avuto nella ristrutturazione, nella capacità di rafforzare, di mettere in moto il sistema dei servizi all'impiego. Noi abbiamo bisogno di istituzioni e strutture più efficaci, più capaci di dare risposte rapide che siano all'altezza anche delle aspettative create dal programma. E con questo è tutto per questa settimana. Europa Europa, vi ricordo come sempre europa@radio24.it per eventuali domande. Da Paolo Corleoni in regia, da Gigi Donelli al microfono, l'augurio di un ottimo fine settimana, e quando e se volete naturalmente ci ritroviamo sul web come sempre www.radio24.it. A presto!